Vivo Salute di Nicoletta Carbone. Buona giornata, eccoci pronti, si parte con Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza e Laura Vanossi in redazione. Oggi vorrei partire leggendovi una frase di Cesare Pavese che mi sembra particolarmente indicata per il momento che siamo chiamati a vivere e anche per le sfide che ci attendono e che dobbiamo essere pronti ad affrontare e a superare. L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante. E la ripresa per la quale ci stiamo preparando è davvero un nuovo inizio, è un cominciare. E come spesso succede quando dobbiamo affrontare qualcosa di nuovo, facciamo i conti su quello che abbiamo a disposizione, sulle nostre risorse, in questo caso sul nostro stato di salute psicofisico. Beh, per quanto riguarda le nostre emozioni e quindi sul fronte psicologico, ci stiamo, come sapete, allenando con il team di psicologi di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che ha preparato per noi dei consigli utili per affrontare una nuova normalità. Ci sono gli esercizi per coltivare l'empatia, che è la capacità di mettersi nei panni degli altri, i consigli per gestire in modo salutare questo bisogno di informazioni e anche di rassicurazioni che è tipico di questo momento, e tanti altri suggerimenti che scopriremo nel corso della settimana. Trovate comunque tutto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, compreso, oltre gli esercizi, questo test di valutazione che ci aiuta a capire se stiamo procedendo correttamente oppure se dobbiamo impegnarci un pochino di più. Ma oggi vorrei, insieme ad un grande amico della nostra trasmissione, fare anche una sorta di bilancio di salute. Come ci sentiamo? Siamo in forma? Ci sentiamo un po' provati, affaticati? Che cosa di nuovo, di diverso abbiamo notato in queste settimane di isolamento? Bene, oggi ci impresta il suo occhio, in questo caso orecchio clinico, il professor Claudio Borghi, che è già in linea con noi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, bentornato. Ah, grazie infinite e bentrovati, visto che l'unico modo che abbiamo di tenerci in contatto è questo, ma è sempre un modo meraviglioso. Meraviglioso. Professor Borghi, noi siamo di fronte ad una situazione che non ha precedenti. L'isolamento ha cambiato il nostro stile di vita, che sappiamo essere molto importante per la nostra salute, ma come si dice, noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Ma lei che cosa si aspetta? Che situazione prevede di trovarsi ad affrontare come clinico? Proviamo a tratteggiare dei profili in base all'età e al genere per cogliere eventuali differenze e fare in modo che anche i nostri amici da casa possano identificarsi. È possibile, professor Borghi? Beh sì, ci possiamo provare. Devo dire che questo periodo di isolamento naturalmente non incide allo stesso modo su tutte le persone, non incide allo stesso modo su tutti i pazienti, dipende da una serie di fattori che sono in gran parte legati al tipo di malattia che eventualmente affligge le persone o al fatto che molte di queste persone in pratica abbiano soltanto da preoccuparsi di propri fattori di rischio senza avere uno stato di malattia sostanziale. Quindi già in questo momento riusciamo a distinguere due grandi categorie di pazienti: i pazienti cosiddetti malati, cioè quelli che hanno sintomi e che quindi necessariamente devono affrontare un problema di malattia conclamata, rispetto a quelli che invece devono semplicemente correggere i loro fattori di rischio, l'ipertensione, il diabete, la dislipidemia e quant'altro. Per cui fondamentalmente io mi trovo a pensare che in termini categorici grandi differenze probabilmente nell'ambito del genere non ci sono, se non che ho notato da alcuni amici e per la verità anche in casa mia che molte signore hanno imparato a cucinare molto meglio di prima perché si dedicano alla cucina molto di più, quindi forse l'impatto più interessante è questo rispetto a quello salutistico, inclusa naturalmente mia moglie. E dal punto e quindi di vista, il giro vita aumenta, professor Borghi? Il giro vita aumenta, quindi troverei pazienti che escono in maniera sostanzialmente indenne da questo periodo, coloro che sono stati in grado di rispettare delle regole di vita precise anche nell'isolamento, quindi mangiare in maniera regolare, cercare di fare un minimo di attività fisica, è possibile fare un minimo di attività fisica anche nello spazio ristretto ed eventualmente assumere in maniera regolare i farmaci antipertensivi. sicuramente un vantaggio sarà dato a quei pazienti che devono assumere farmaci in maniera sistematica e che magari per lo stile di vita attivo prima li dimenticavano con una certa frequenza. Oggi probabilmente vivendo una vita più semplice, più regolare, si trovano con questa boccetta davanti a loro e molto probabilmente con più facilità li assumono in maniera sostanziale, mentre probabilmente quelli che mi aspetto di trovare un po' peggio, ma già lo vedo nel funzionamento del nostro ospedale a Bologna, sono coloro che avevano bisogno di controlli più ravvicinati e che naturalmente nell'isolamento, nella riduzione delle attività ambulatoriali, tutto quello che è successo in questo periodo, probabilmente hanno trovato meno supporto e saranno quelli ai quali dovremo indirizzare più attenzione nei giorni a venire. 349-238-6666 se avete dubbi, domande per il professor Borghi, che resta con noi quindi pronto a rispondere. Professore, ci impresti il suo occhio clinico, a quali segnali dobbiamo prestare attenzione per essere pronti, come si dice, a intervenire rapidamente in modo efficace? Beh, sicuramente quei segnali che possono dare evidenza alla comparsa o forse alla aggravamento di uno dei segni indiretti di condizioni come l'ipertensione, come il diabete, che potrebbero dare segno di sé anche dal punto di vista clinico e che potrebbero per qualche motivo essere rafforzati dal periodo di chiusura e di forzata inattività, ad esempio la comparsa di manifestazioni di tipo cefalalgico, di un mal di testa che tende a comparire prevalentemente nelle ore serali o alternativamente una sensazione di eccessiva stanchezza o una certa difficoltà a mantenere la concentrazione, sono quei sintomi tipici che molto spesso si associano ad esempio a un aumento dei valori di pressione arteriosa. Altra cosa importante, naturalmente dobbiamo prestare grande attenzione alla bilancia, noi dovremmo prestare attenzione alla bilancia sempre, ma in questo caso ovviamente dovremmo pesarci forse con una maggiore frequenza per renderci conto rapidamente se il nostro corpo sta aumentando, il peso del corpo sta aumentando, il che vuol dire che dovremmo pensare a dei provvedimenti un po' più drastici per la nostra salute. Guardi, professor Borghi, c'è un appuntamento da cui nessuno sfugge e che è un test infallibile: il cambio di stagione, quando facciamo il cambio di stagione nel nostro armadio, quando indossando gli abiti che portavamo la scorsa primavera e la scorsa estate vediamo che tutto tira, ecco, quello è una buona indicazione, ecco, per ascoltare la bufala in tavola e magari correggere un pochino la nostra dieta. Questo professore, di lì non si scappa. Potrebbe essere un momento assolutamente cruciale, perché probabilmente restando molto in casa curiamo un pochino meno la rotazione del guardaroba, mentre ricominciando una vita all'aperto il nostro guardaroba ritorna in superficie e in questo caso effettivamente potremmo renderci conto di qualcosa che è cambiato. Con questi pantaloni, queste gonne che improvvisamente nell'armadio sono diventate un po' strettine. Professore, sì. L'isolamento però, diciamola, lei ha così cercato di mettere di fare un esame dei punti di forza e di criticità. Ma l'isolamento non sembra amico del nostro cuore, non parlo solo di cuore inteso come affetto. Sappiamo, e lei l'ha citato, anche quanto la sedentarietà, le preoccupazioni, una dieta squilibrata, una cattiva qualità del sonno o anche l'alterazione del sonno veglia impattino sulla nostra salute e in modo particolare sulla salute di questo organo straordinario, quindi a farne le spese potrebbe essere la nostra pressione oppure il colesterolo, la glicemia. Qui abbiamo bisogno di lei, professore, con indicazioni e consigli molto molto pratici da applicare subito per cambiare passo. Inizierei, se lei è d'accordo, da chi soffre di ipertensione e sta assumendo una terapia. Che cosa deve sapere e soprattutto fare o evitare? Fare sicuramente continuare a misurarsi la pressione in maniera sistematica come sempre ha fatto, perché il fatto di restare per un certo periodo seduti a casa propria e fuori dal mondo non vuol dire che corrisponda sempre a un buon controllo dei valori di pressione arteriosa come lei citava. Molti dei miei pazienti in questo periodo mi hanno contattato perché avevano un andamento esattamente opposto, soprattutto quelli che si vedevano privati di una vita attiva o quelli che erano ad esempio preoccupati per la loro attività, per il proprio lavoro. Quindi controllare i valori di pressione arteriosa è assolutamente determinante. Cercare di adeguare la dieta al tipo di attività fisica che si fa. Se noi riduciamo di molto l'attività fisica stando a casa, naturalmente non possiamo continuare a mangiare la stessa quantità di cibo E lo stesso naturalmente vale per il sale. Il sale dovrà essere tenuto il più lontano possibile, soprattutto in questo periodo nel quale fatalmente le spese fatte nei supermercati con caratteristiche di maggiore rapidità portano, secondo me, all'accumulo di cibi preconfezionati che contengono una quantità di sale nettamente superiore rispetto ai cibi freschi dei quali ci approvvigioniamo normalmente. E l'altro aspetto importante, ovviamente, è prestare grande attenzione alla terapia. Il fatto che noi siamo rinchiusi, che abbiamo delle limitazioni, non vuol dire ovviamente che possiamo pensare che i nostri fattori di rischio, e la pressione in particolare, se ne stia a posto tranquillamente. La pressione ha costantemente bisogno della sua terapia antipertensiva, che potrà essere adattata naturalmente sulla base dello stile di vita, ma mai dimenticata. Parliamo di colesterolo rapidamente, poi due indicazioni per la glicemia. Colesterolo, è vero che anche le preoccupazioni possono farla aumentare o è falso? Beh, sostanzialmente direi che è più falso che vero. Il colesterolo ha una sua origine genetica, è prevalentemente genetica, e di questa bisogna tenere conto. Questo infatti è il motivo per cui anche in questa fase di isolamento, ancora una volta, lo ripeto in maniera ossessiva, è necessario continuare ad assumere sistematicamente la terapia ipocolesterolemizzante, perché il colesterolo aumenta nel sangue in ragione della nostra predisposizione genetica e non risente naturalmente di chiusure o di periodi di limitazione della nostra attività. Certamente la dieta, come abbiamo detto più volte, è importante, ma fondamentalmente il problema centrale è trattarlo in maniera efficace, qualunque sia il nostro stile di vita. Glicemia, che cosa è importante sapere, professore? E soprattutto per le persone che sanno di avere la glicemia in quella sorta di zona grigia. Certo, in questo caso l'importante è sapere qualcosa che ci riconduce al nostro punto di partenza, un controllo strettissimo del nostro peso corporeo, perché l'aumento della glicemia, quindi la transizione dalle condizioni di disglicemia verso il diabete, è parallelamente associata a un aumento del peso corporeo, una sostanziale limitazione di cibi dolci o dolcificati, perché facendo meno attività fisica siamo certamente meno in grado di controllarla, e ancora una volta per i pazienti diabetici una grande attenzione ad assumere sistematicamente la terapia, e per tutti coloro che sono in grado di farlo, oggi moltissimi, stante l'organizzazione dei centri antidiabetici, un controllo periodico attraverso l'uso dei glucometri, che sono di uso estremamente semplice. Professor Borghi, grazie per essere stato con noi, per averci imprestato il suo occhio orecchio clinico e per averci dato delle indicazioni per una buona ripartenza. Professore, buona giornata, grazie, ci sentiamo presto. Buona giornata anche voi e grazie infinite. E adesso scendiamo di età, perché a Obiettivo Salute insieme a voi vogliamo anche occuparci dei nostri bambini. A tra poco, insieme ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, che torna subito dopo le informazioni sul traffico. Vi aspetto. Obiettivo Salute. Siamo tornati insieme, ultima parte di Obiettivo Salute insieme a voi, per parlare dei nostri bambini che in questa emergenza hanno dato sicuramente senso alle nostre giornate e sono stati per molti di noi davvero un esempio, perché possiamo imparare tanto dal modo in cui i piccoli hanno affrontato questa emergenza. Voi che cosa ne pensate? 349-238-6666 se volete condividere il vostro pensiero con noi, e anche a Obiettivo Salute @radio24.it la mail a cui aspettiamo naturalmente come sempre le vostre storie. E in linea con noi, come anticipato, c'è Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore, pronto a darci una mano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, effettivamente i bambini hanno, in qualche modo, sono rimasti sulla stessa zattera nella tempesta insieme a noi, si sono aggrappati a noi, fondamentalmente si sono affidati alla nostra capacità di saperli condurre e nutrire in un tempo di deprivazione, e in generale anche i nostri figli più grandi, preadolescenti e adolescenti, se consideriamo, si sono dimostrati davvero all'altezza della situazione, i quotidiani, i media non ci hanno mai raccontato di fatiche legate alle reazioni dei nostri figli, che si sono perciò dimostrati adattabili e resilienti, in qualche modo in grado di tollerare un grosso sacrificio. Alberto, però adesso anche i nostri figli, anche i bambini iniziano a mostrare un po' di insofferenza, spesso non lo fanno a parole ma mandando dei segnali. Questo è il modo con cui i bambini danno voce a quelle che sentono dentro e che magari non sanno raccontare, tanto più ora in questa situazione nuova. Allora vorrei chiederti se ci aiuti a interpretare questo linguaggio, Alberto, perché magari sai, vediamo che il bambino fa più capricci o ha degli sbalzi di umore, litiga con i fratellini, noi diciamo perché è annoiato e stufo, ma che cosa ci racconta? Ma proprio giustamente come hai detto tu, i bambini non hanno spesso le parole per raccontare i loro stati emotivi e anche la perdita dell'equilibrio emotivo che una situazione così sfidante ha messo nella loro vita, quindi spesso ce lo fanno vedere attraverso le azioni. Chi ha bambini piccoli probabilmente ha visto in questo periodo più frequentemente, direi, segnali, comportamenti di tipo regressivo, cioè come se fossero tornati un po' indietro, chiedono di dormire nel lettone, ci sono veramente sempre un po' attaccati come delle cose, oppure alcuni bambini che avevano già avuto si erano tolti il pannolino eccetera, sono un po' ritornati indietro, hanno ricominciato a fare la pipì a letto, in parte sono segnali d'ansia, in parte sono proprio segnali in cui le autonomie che avevano conquistato sono diventate un po', si sono ridotte un po' e sono diventati un po' dipendenti. E poi c'è anche il segnale di qualche segnale di depressione. Effettivamente la depressione nei bambini è correlata al fatto che la loro energia vitale, la loro voglia di spingersi in avanti, di esplorare la vita, le relazioni, il territorio che li aspetta fuori di casa, si è potentemente ridotto, è diminuito. E in generale la depressione nei bambini ha due manifestazioni completamente opposte: da una parte una sorta di ritiro, li vediamo più apatici, abulici, che si trascinano un po' dal divano alla televisione con scarsa voglia di fare le cose; dall'altra parte invece si presenta con segni proprio di irritabilità, sembrano più arrabbiati, più aggressivi, fortemente instabili sul tono dell'umore, ci sembra di non poterli sopportare più, non ti riconosco più, ma dov'è finito il bambino che c'era prima? Ecco, quel bambino c'è ancora, ma è stato messo duramente alla prova in una situazione che effettivamente per un bambino è contro natura. Alberto, per questo tipo di cambiamenti, hai detto il bambino magari più piccolo regredisce un po', oppure il bambino che si mostra un po' apatico o il bambino irascibile, sono tutte espressioni di un disagio che i bambini raccontano in questo modo. Che cosa devono fare i genitori? Aspettare, temporeggiare, intervenire, proporre il cambio di scena come per intrattenerli e portarli un po' altrove, almeno a livello di pensiero? Ma il genitore tante volte si spazientisce e quindi non fa altro che amplificare la tempesta che già c'è dentro al bambino, perché quando noi ci arrabbiamo, ma perché fai così, ma smettila di essere così, è come se noi dicessimo al bambino sei sbagliato, quando lui stesso tante volte non sa nemmeno perché si trova in quello stato di irritabilità o perché ha perso così tanto la sua voglia di sentirsi vitale ed energetico. La cosa migliore è proprio invece sentire che noi siamo il sostegno per la loro crescita e quindi in questo tempo un po' affaticato dobbiamo metterci quel pezzetto che ci sembra che manchi a lui, cioè se è andato un po' in una zona di ritiro o di apatia, di ridiventare nutrienti e divertenti. In questo senso, tra l'altro, sostenere proprio anche un po' le attività corporee del bambino, metterlo in il corpo è un grandissimo riequilibratore emotivo per il bambino, quindi anche per noi può essere molto divertente poi coinvolgerci in un gioco di coccole, per esempio, in attività di rilassamento corporeo dove il bambino sdraiato per terra lo invitiamo a contrarre, rilasciare gruppi muscolari, noi lo facciamo divertire attraverso proprio un gioco che gli fa riprendere contatto con il proprio corpo e gli fa in qualche modo tenere e poi rilasciare i suoi stati emotivi. Potremmo reinventarci dei momenti come la baby dance del villaggio di vacanza, e quindi certo, questa diventa immediatamente... Guarda, ci sono tutti spunti, tu hai citato, mi sa che tu frequenti ogni tanto la pagina di Obiettivo Salute. Proprio ieri abbiamo iniziato a postare gli esercizi di Daniel Cheragarula, che ha fatto proprio dei video per fare ginnastica insieme ai bambini, e poi ci sono le coreografie invece di Beatrice Carbone, che ci aiuta un po' a scoprire la ballerina che c'è dentro di noi. Sono tutte occasioni di svago, di movimento, che possiamo condividere naturalmente con i nostri bambini, un po' in famiglia. Quindi Alberto, grazie, che così mi hai dato anche uno straordinario assist per invitare i nostri amici a visitare la nostra pagina Facebook. Senti Alberto, noi abbiamo spiegato ai nostri bambini le ragioni che ci costringevano a stare a casa, non andare a scuola o all'asilo, abbiamo parlato del virus, di questo nemico invisibile. Adesso però con la ripresa dobbiamo essere pronti a mandare ai nostri bambini anche degli altri messaggi. Ad esempio, bisognerà spiegare di non avvicinarsi troppo alle persone, di non buttare le braccia al collo al nonno adorato, di non sbaciucchiarlo troppo. Come si fa, Alberto? Ma fondamentalmente i bambini devono imparare un nuovo modo di comportarsi, e proprio perché non lo hanno mai messo in gioco lo devono apprendere, quindi noi dovremmo fare delle sessioni di allenamento, possiamo proprio fargli simulare le situazioni della visita dal nonno. Se noi andiamo nel suo appartamento dobbiamo essere dotati di mascherina, spiegare perché dobbiamo mettere la mascherina, e poi inventarci per esempio un rituale di saluto con il nonno, ma a distanza. Può diventare davvero, è chiaro che sono tutti artifici, perché il bambino avrebbe voglia di abbracciarselo il suo nonno, però partendo dalla necessità di proteggere un nonno, allora ci possiamo proprio inventare, noi lo possiamo anche già costruire in videochiamata, 5 gesti che il nonno e il bambino faranno insieme nel momento dell'ingresso nella casa del nonno, e quel gesto vorrà dire: che bello rivederti, avevo tanta voglia di abbracciarti, che bello essere qui con te. Ecco, proprio piccoli codici corporei, giochi del corpo, rituali corporei che nella distanza però dicono: io e te siamo connessi. Alberto, si riprende, genitori al lavoro, bambini a casa da scuola e dall'asilo, non sarà facile, tanto più che non si potrà contare proprio sui nonni. Ma Alberto, tu in tempi non sospetti, è sempre brutto dire ve l'avevo detto, anzi in questo caso io dovrei dire ve l'aveva detto, siamo ai primi di marzo, tu avevi suggerito una soluzione proponendo un gemellaggio tra famiglie vicine e simili. Vuoi raccontarcele? Soprattutto, secondo te potrebbe essere ancora una soluzione valida? Sì, io ne sono profondamente convinto, tra l'altro credo che sia stato anche realizzato in Danimarca e proprio invitato a far sì che ogni famiglia si gemellasse con una famiglia simile, con cui condividere rigorose regole poi di distanziamento sociale da tutti gli altri, costruire una sorta di famiglia allargata in cui ci fosse un bambino della stessa età del nostro bambino, e questo avrebbe permesso ai bambini di non rimanere da soli per un tempo così lungo e a noi genitori di poterci supportare in tutte le funzioni multitasking che abbiamo dovuto gestire. Quindi due nuclei di tre persone che diventano una sorta di nucleo allargato di sei, in cui i bambini hanno sempre un compagno di gioco. Questo probabilmente avrebbe reso molto più tollerabile magari la situazione che abbiamo vissuto, veramente non allargando il rischio di contagio nel momento in cui si sottoscrivono le stesse regole di protezione, e soprattutto avrebbe permesso proprio anche una cooperazione tra famiglie che invece si sono sentite a volte molto perse, molto isolate. Insomma, la genitorialità sociale, un concetto, no, che tu riprendi spesso. Sì, e che abbiamo magari poi attuato in altro modo attraverso videochiamate, dandoci conforto con telefonate. Ecco, forse soprattutto in questa fase 2 questa rimane davvero un'idea facilmente perseguibile, capace di generare micro comunità competenti e in grado di sostenersi a vicenda, e soprattutto in grado di aiutare i nostri bambini a non essere soli e ad avere compagni di gioco. Alberto, grazie, ti devo salutare, grazie per questi suggerimenti, per averci aiutato a leggere la situazione e averci dato delle indicazioni. Ci sentiamo presto, ti auguro una buonissima giornata. Anche a te Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Torniamo domani insieme, sempre alle 10.30, sempre a vostra disposizione, obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata.